Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. L'ufficio del comandante aveva una grande finestra che dava sul pozzo a lume. Di fronte, con una eguale finestra, l'ufficio del tenente. E tra le due finestre correva una distanza che, sporgendosi, due persone avrebbero potuto passarsi delle carte da un ufficio all'altro. Per il modo come la scrivania del capitano era disposta, Marchica sedette di fronte alla finestra e alla sua destra era la porta dell'ufficio. «Lei è nato a B?» domandò il capitano. «Sì, signore», disse il Marchica con tono di sopportazione. «Ed è sempre stato a B?» «Non sempre. Ho fatto il soldato, sono stato per qualche anno in galera». «Immagino conosca molta gente a B?» «È il mio paese. Ma a volte, sa come succede? Uno manca per un paio d'anni e i ragazzi sono giovani e i vecchi sono più vecchi. E non parliamo delle donne. Le lasci che giocano per strada con le noccioline, torni dopo un paio d'anni e le trovi con i bambini attaccati alla veste, magari sformate nel corpo. Ma quelli che sono della nostra età, che sono stati sempre nel nostro quartiere e da bambini hanno giocato con noi, si fa presto a riconoscerli, no?» «Certo», disse il Marchica, e cominciava a preoccuparsi, più per il modo pacato da conversazione che il capitano teneva che per il senso delle domande. Il capitano tacque per un momento, come improvvisamente distratto nei suoi pensieri. Il Marchica guardava dalla finestra l'ufficio di fronte, vuoto e illuminato. Il capitano aveva avuto cura di accendere nel suo ufficio una sola lampada, quella sul tavolo, e voltandola in modo che la luce battesse sul tavolino al lato, dove il brigadiere scriveva, per cui la visione dell'altro ufficio era chiarissima al Marchica. «E lei, senza dubbio, ha conosciuto un certo Paolo Nicolosi?» «No», disse precipitosamente il Marchica. «Impossibile», disse il capitano. «Forse in questo momento non riesce a ricordarsene, anche perché da molti anni il Nicolosi si era allontanato da B, ma tenterò di rinfrescarle il ricordo. Il Nicolosi abitava in via Giusti, che fa angolo con la via Monti, dove lei, se non sbaglio, ha sempre abitato. Il padre era un piccolo proprietario, ma faceva il mestiere di potatore. E questo mestiere fa il figlio, che ora risiede a S, dove si è sposato. Ora che lei mi dice queste cose, mi pare di ricordare. Ne sono contento. E non è poi difficile ricordare certe cose, certe persone, specialmente se sono legate a un tempo felice della nostra vita, l'infanzia. Giocavamo assieme, mi ricordo. Ma lui era più piccolo di me. E quando sono andato per la prima volta in galera, ingiustamente, come è vero il Dio del Sacramento, lui era ancora un ragazzo, non l'ho più visto. E com'è? Di faccia, voglio dire, nel fisico. Della mia statura, di pelo biondo e gli occhi cilestrini. Ah, i baffetti, disse il capitano con sicurezza. Prima li aveva, disse Marchica. Prima di che? Prima di tagliarseli. Dunque lei lo ha visto quando aveva i baffi e poi quando se li è tagliati. Forse confondo. Pensandoci bene, sto proprio facendo una confusione. No, lo rassicurò il capitano. Lei ricorda esattamente. Portava i baffi prima di sposare, poi via. Forse alla moglie non piacevano. Lei lo avrà dunque incontrato a B. Non so se in questi ultimi tempi, da che lei è fuori per l'amnistia, Nicolosi sia venuto a B. È probabile. O forse lei lo ha incontrato a S. Non vado a S da anni. Strano, disse il capitano, come assalito da una improvvisa preoccupazione. Strano davvero. Perché è proprio il Nicolosi a dire di aver incontrato lei a S. E io non capisco che ragione ci sia a mentire su questo punto. Il Marchica non capiva più niente. Il capitano lo guardava indovinando il travaglio della sua mente. Su e giù come un cane sotto il solleone, la mente. Una raggiera di possibilità, di incertezze, di presentimenti che si apriva ad ogni punto su cui, con animale sensibilità, si fermava. Si aprì di colpo la porta dell'ufficio e Marchica si volse istintivamente a guardare. Sulla soglia il maresciallo di S salutò e disse Si è deciso. E alle sue spalle c'era sbracato, coi capelli scomposti e la barba lunga, il Pizzucco. A un gesto del capitano il maresciallo si ritrasse, chiudendo rapidamente la porta. Il Marchica si sentì affogare nello sgomento. Il Pizzucco, senza dubbio, a furia di nerbate, stava per cantare. E il Pizzucco, invece, era stato proprio in quel momento strappato al sonno e aveva la mente lacerata da sogni inquieti e non il corpo dalle nerbate. Vide nell'ufficio di fronte, nella cruda luce, entrare il Pizzucco, il maresciallo e un tenente. E subito, appena seduti, il tenente fece una breve domanda e il Pizzucco cominciò a parlare e il maresciallo a scrivere. Il tenente aveva chiesto quale vita e con quali mezzi il Pizzucco conducesse. E il Pizzucco stava rovesciando l'edificante storia della sua vita onesta, intemerata, di intenso lavoro, sulla penna veloce del maresciallo Ferlisi. Ma dentro di sé, dalla voce del Pizzucco, il Marchica sentiva una storia da 27 anni di reclusione ad andar bene, 27 lunghi anni di ucciardone, che nemmeno Dio sarebbe riuscito a scaricare dalle spalle di Diego Marchica. «Che ragione c'è?» domandò il capitano, a mentire su questo punto. «Non dico per lei, dico per il Nicolosi. Che ragione ha di affermare una cosa del resto così irrilevante, così stupida?» «Non può dirlo», disse recisamente il Marchica. «E perché?» «Perché non può dirlo. Forse perché lei, giustamente, fondatamente per quel che ne sa, ritiene che il Nicolosi sia già morto. Morto o vivo per me è la stessa cosa. Ma no, lei ha ragione. Nicolosi è morto». Visibilmente il Marchica ne ebbe sollievo, ed era segno che per lui, senza la conferma del capitano, un margine di dubbio sulla morte di Nicolosi esisteva. Non lui, dunque, lo aveva fatto fuori. Nell'altro ufficio Pizzucco cantava, cornuto, uomo da quattro soldi, figlio di una troia. Quattro nerbate ti fanno vomitare tutto, ma la pagherai. Sotto le mie mani o sotto le mani di altri la pagherai. «Sì», disse il capitano, «Nicolosi è morto, ma lei sa che qualche volta i morti parlano». «Col tavolino a tre piedi», disse con disprezzo Diego. «No, parlano semplicemente per il fatto che prima di morire scrivono qualcosa. E Nicolosi, dopo aver incontrato lei, ha avuto la buona idea di scrivere il suo nome e soprannome su un pezzo di carta. Diego Marchica, detto Zicchinetta, aggiungendo il luogo, l'ora dell'incontro e la considerazione del resto ovvia, che la morte di Colasberna fosse da collegare alla presenza di Zicchinetta S. in quell'ora e in quel luogo. Una letterina, insomma, che considerato il fatto che Nicolosi è morto, per i giudici sarà più importante della testimonianza che il Nicolosi avrebbe potuto rendere da vivo. Che errore è stato il vostro! Questa letterina il Nicolosi l'ha lasciata alla moglie e solo nel caso gli fosse accaduto qualcosa, la moglie avrebbe dovuto consegnarla a noi. A lasciarlo vivo sono certo che non avrebbe mai osato fare testimonianza e tantomeno denunciare quello che aveva visto. È stato un terribile errore ammazzarlo. Nell'ufficio di fronte Pizzucco aveva finito di parlare. Il maresciallo aveva riordinato i fogli e gli si era avvicinato a fargli firmare foglio per foglio l'infamità. Poi il maresciallo era uscito e un momento dopo entrò nell'ufficio del capitano a portargli i fogli. Il Marchica sudò a morte. «Non so», disse il capitano, «cosa lei pensa di Rosario Pizzucco». «È una spugna di infamità», disse Diego. «Non lo avrei mai creduto, ma siamo d'accordo, perché mi pare infame per voi siciliani è colui che commette l'infamia di rivelare fatti che, pur meritando la giusta punizione della legge, non dovrebbero mai essere rivelati. Siamo d'accordo. Pizzucco ha fatto infamità. Vuol sentire? Leggi», disse al brigadiere porgendogli i fogli che il maresciallo aveva portato. Accese una sigaretta e restò a guardare immobile con gli occhi socchiusi Diego Marchica che grondava di sudore e silenziosamente si ingultava di rabbia. Il falso verbale, che era stato accuratamente preparato, diceva che spontaneamente le nerbate, pensò Diego, le nerbate. Rosario Pizzuco confessava di aver incontrato tempo addietro il Marchica e di avergli fatto confidenza di certe offese ricevute dal Colasberna. E il Marchica si offrì come strumento di vendetta. Ma essendo lui, Rosario Pizzuco, uomo di saldi principi morali, poco inclinato alla violenza e assolutamente alieno da sentimenti vendicativi, l'offerta fu rifiutata. Il Marchica insistette, rimproverando anzi al Pizzuco l'atteggiamento di indecorosa sopportazione che assumeva nei riguardi del Colasberna, e aggiunse che, avendo verso costui personali motivi di risentimento, per lavoro o denaro che gli aveva negato, il Pizzuco non ricordava bene, un giorno o l'altro avrebbe astutato il Colasberna, che voleva dire ne avrebbe spento la vita così come si spegne una candela. E senza dubbio aveva attuato il suo proposito. Se qualche giorno dopo l'omicidio di Colasberna, recatosi il Pizzuco a Vi per un certo affare di terreni e per caso incontrando il Marchica, da questi aveva avuto, senza che peraltro ne avesse sollecitato la confidenza, tremenda rivelazione di un duplice omicidio, con queste precise parole: «Partivo pi astutarinni uno e mi tucca astutarinni tu». Che inequivocabilmente, nel linguaggio da malavita del Marchica, dichiarano l'esecuzione di due omicidi, uno in persona di Colasberna, l'altro, a sospetto del Pizzuco, in persona del Nicolosi, della cui scomparsa in quei giorni si parlava. Il Pizzuco ebbe grande spavento dalla pericolosa rivelazione e tornò a casa sconvolto. Naturalmente non parlò della cosa ad anima viva, temendo, stante la natura violenta del Marchica, per la sua stessa vita. A domanda sui motivi per cui il Marchica lo avesse fatto depositario di un così pericoloso segreto, il Pizzuco aveva risposto che forse il Marchica, da tempo assente dalla zona, aveva creduto di poter confidare nel Pizzuco per certi trascorsi solo apparentemente eguali ai propri. Nel periodo confuso del movimento separatista, avendo entrambi militato nelle formazioni del Levis, ma per fini assolutamente ideali il Pizzuco, a scopo delittuoso il Marchica. Ancora a domanda se dietro il Marchica si potessero individuare delle responsabilità di terzi, ossia di mandanti, il Pizzuco aveva risposto di non sapere, ma per opinione personale era portato ad escluderlo nel modo più assoluto, ravvisando i motivi del delitto soltanto nel carattere violento e nella invincibile tendenza a delinquere di cui, contro la proprietà e la vita degli altri, il Marchica aveva dato sempre prova. Era un falso magistrale, di perfetta verosimiglianza relativamente ad uomini come il Pizzuco e al Pizzuco in particolare, ed era nato dalla collaborazione di tre marescialli, e il tocco più sapiente era dato dall'ultima affermazione attribuita al Pizzuco, l'assoluta esclusione della possibilità che esistessero mandanti. Il nome di Mariano Arena in quel falso verbale sarebbe stato un passo irrimediabilmente falso, la nota stonata, il dettaglio inverosimile, e il gioco si sarebbe sfasciato nella diffidente valutazione del Marchica. Ma la precisa tecnica di rovesciare in basso, cioè sul Marchica, ogni colpa, recisamente negando le proprie e respingendo il sospetto che ci fossero dei mandanti, al Marchica diede l'angosciosa certezza dell'autenticità. E anzi nemmeno per un istante ne dubitò. La voce del brigadiere che leggeva il documento, adattandosi come colonna sonora alla muta visione di cui, attraverso la finestra, era stato spettatore. Sconvolto, accecato da una collera che, ad avere tra le mani il Pizzuco, si sarebbe manifestata spegnendone la infame vita, dopo un lungo silenzio disse che, mettendosi così le cose, a lui restava da fare quel che fece Sansone. «Mori Sansoni», disse, «cu tuttu lu cumpagnuni», ristabilendosi, capisce, nella loro verità, i fatti che quel lurido cane aveva a modo proprio raccontato. Un incontro, un primo incontro dopo tanti anni, col Pizzuco c'era stato, a B, nei primi di dicembre dello scorso anno. Il Pizzuco gli propose di far fuori il Colasberna, che disse gli aveva fatto terribile offesa. come compenso 300.000 lire. Il Marchica, poiché da pochi mesi era stato dimesso dal carcere e voleva godere un po' di serena libertà, disse che non si sentiva. Ma poiché si trovava in bisogno e il Pizzuco, insistendo, gli fece balenare la possibilità di un acconto immediato e gli promise per dopo, ad impegno assolto, il saldo della somma pattuita e un impiego come campiere in aggiunta, il Marchica cedette. Solo per il fatto, era bene ripeterlo, che si trovava in condizioni di bisogno. Terribile è il bisogno. Furono dunque stabilite col Pizzuco le modalità per eseguire il delitto, impegnandosi il Pizzuco a concorrere facendogli trovare l'arma in una casa di campagna di sua proprietà, dove il Marchica, la notte precedente all'esecuzione del delitto, si sarebbe dovuto recare. Dalla casa di campagna, non lontana dal paese, il Marchica avrebbe dovuto, seguendo un itinerario prestabilito, appostarsi allo sbocco di via Cavour, all'ora di partenza del primo autobus per Palermo, poiché ad ogni sabato, con quell'autobus, il Colasberna usava recarsi a Palermo. Eseguito il colpo, il Marchica avrebbe dovuto velocemente fuggire per la via Cavour e tornare alla casa di campagna del Pizzuco, dove costui sarebbe poi venuto a prelevarlo per ricondurlo in macchina a B. Il Marchica, giorni prima del delitto, si recò a S per prendere visione dei luoghi in cui avrebbe dovuto agire e per essere in grado di identificare senza possibilità di equivoci il Colasberna. In quell'occasione il Pizzuco fissò la data dell'omicidio. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Realizzazione tecnica di Ciro Lutricuso, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.